sorriso sincero di un bimbo che vola fin verso il sole e non tornerà. Tornerà. Vieni qui, abbracciami, raccontami tutto quello che senti ed io potrò dirti ciò che vuoi, anche se farà male, passerà, passerà. Passerà il volo di un sorriso, pensiero lontano.